Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Pino Daniele poteva essere salvato? Differiscono le versioni dell'ASL di Grosseto e del cardiologo di fiducia Achille Gaspardone circa i soccorsi. L'azienda dice che l'ambulanza era vicino all'abitazione dopo circa 10 minuti dalla prima chiamata. Il professionista ha detto che dopo 30 nessuno l'aveva ancora vista. Una discrepanza arrivata ai carabinieri di Orbetello, che nelle ore successive alla denuncia di Gaspardone hanno verificato i tabulati del 118. E alla fine è venuto fuori che la versione data dalla famiglia rispecchia in pieno quella della ASL. Tutto si sarebbe svolto nell'arco di 19 minuti. Il giallo, insomma, finisce qui. Resta soltanto la decisione, presa dal cantante, di andare a Roma anziché a Grosseto. Una scelta forse che gli è costata la vita, dato il troppo tempo passato tra il malore e l'arrivo al Sant'Eugenio. Credo che zio Pino abbia sottovalutato il suo malore. Si era ripreso e ha voluto provare a raggiungere il suo medico di fiducia, dice Loredana Daniele, la nipote del musicista. La famiglia smentisce che l'auto... La domanda è, in Italia si può morire in pace? L'altra domanda è... Ma è una caratteristica specifica della maniera che abbiamo nel nostro paese per trattare l'attualità, che anche di fronte alla notizia luttuosa che mette senz'altro tristezza a chiunque, anche chi non sia appassionato di musica leggera, di un grande artista che è scomparso, venga poi fuori improvvisamente un'altra vicenda che merita un plastico nel talk show televisivo della prima e seconda serata. Procura di Roma ha aperto un'indagine contro ignoti per omicidio colposo, questa è l'ultima notizia, quindi una vicenda già così controversa, già così piena di sottotracce, sottoracconti come quella della morte del cantante Pino Daniele, che in questi giorni, pochissimi giorni, ci ha seguito con una vicenda di doppio funerale. Un funerale si sta svolgendo adesso a Roma, un altro se ne svolgerà a Napoli, una famiglia divisa, un lungo corteo di persone di fronte alla camera ardente nella Basilica del Divino, vicino al Divino Amore di Roma, dove si sta svolgendo oggi il funerale. La camera ardente naturalmente era al Sant'Eugenio, all'ospedale, al Divino Amore oggi sta svolgendo il funerale. Ecco, una lunga fila di persone viene da tutta Italia per rendere omaggio appunto alle spoglie del loro idolo, i politici che vanno e passano la fila, Massimo D'Alema che passa la fila con i suoi uomini di scorta, la gente comincia a insultarlo, anche oltre quella che è un normale senso di risentimento per la politica che sceglie i suoi privilegi anche per farsi vedere in questo momento. E poi nell'epoca dei social media naturalmente la corsa a chi per primo mette la bandierina sul fatto io c'ero, io lo conoscevo, ero amico, gli amici veri, i ricordi belli degli altri artisti, le prese di posizione che molte volte lasciano perplessità, che sembrano più indirizzate a volerci essere a tutti i costi nella grande cerimonia mediatica del funerale dell'artista scomparso. Gad Lerner che dice si era tenuto lontano dalla napoletanità come se fosse una condizione dello spirito deletere, i napoletani sono arrabbiati come se uno avesse pestato la coda a un gatto, Belen che fa la foto commemorativa la mette su Twitter, però ci sono troppe tette di fuori, quindi un paese bigotto come il nostro non riesce ad associare l'idea della tetta scoperta all'idea di un omaggio comunque a una persona, non so se amico o conosciuto, comunque sia ognuno usa le sue carte. In tutto questo vi domando, si può morire in pace nel nostro paese? E ormai una macchina mediatica così forte, così potente, così ormai abituata a seguire i percorsi obbligati che in ogni evento devono vedere il complotto, la vicenda familiare, la prima moglie, la seconda moglie, la fidanzata, chi l'ha accompagnato. Questa mattina sentivo parlare in metropolitana il perché ha fatto tutta quella strada in macchina, è pazzo, perché non è andato all'ospedale Orbetello, ma una persona che ha già un problema potrà decidere lui quello che fare, oppure sarà un problema della magistratura, ma in questo momento siamo tutti presi e siamo tutti divisi a metà, chi sta con la famiglia, chi pensa che dovrebbe essere a Napoli, le ceneri saranno portate al maschio angioino, i napoletani potranno andare a rendere omaggio alle ceneri. Cosa significa rendere omaggio alle ceneri? 800 24 00 24, in questa fosca nebbiosa mattina di ripresa del lavoro dopo l'epifania, cosa ne pensate del caso Pino Daniele? 100.000, forse di più, si dicono tutti i familiari di Pino Daniele, e si sono ritrovati qui a cantare le sue canzoni. Per questa gente Pinuccio è vivo, manco gli puoi parlare del funerale, di due funerali, quello di Roma e quello di Napoli. Per la cronaca, che nulla ha a che vedere con i sentimenti di questa gente, ci sarà il funerale a Roma alle 12 al Divino Amore, poi Pinuccio tornerà a Napoli per il secondo funerale nella Basilica Reale di San Francesco di Paola, qui in Piazza del Plebiscito alle 19. Questo 8 0024 0024, queste sono vicende che comunque contaminano qualsiasi essere umano che sia mediamente collegato agli strumenti di diffusione dell'opinione. Quanto l'opinione in questo momento è una necessità, dal social network più scalcinato, dal profilo Facebook meno frequentato, dai folli twittatori, i troll che stassano la giornata a twittare su ogni cosa che abbia comunque rilevanza per esistere, fino ai grandi giornali, fino agli opinionisti, fino appunto gli opinion leader in questo paese comunque devono dire a loro su questo fatto. E quanto la vicenda di un funerale pubblico, di un funerale eclatante, un funerale in cui tutti comunque devono, lecito da parte loro, prendere posizione, assomigli sia l'immagine speculare amplificata, esplosa nella gloria mediatica di quello che accade in ogni famiglia: quando muore qualcuno rimangono delle questioni irrisolte, e quando comunque esiste attorno a un funerale una famiglia diversamente distribuita, come oggi è normale che siano le famiglie, oggi è normale che si abbia una prima famiglia, una seconda famiglia, una terza famiglia, una famiglia parallela, una famiglia laterale, e poi come accade già al tempo della morte di Lucio Dalla, poi esiste il grande problema della rappresentazione comunque della successione, perché quello che dilania e distrugge la maggior parte delle famiglie in cui c'è qualcosa a dividere diventa enorme, diventa macroscopico, diventa gigantesco in una famiglia in cui c'è da dividere il grande patrimonio comunque dell'ascito artistico di un personaggio così noto, così frequentato, così ascoltato. Quanto voi in questi giorni avete vi siete lasciati attraversare da quella che era la colonna sonora costante di tutte le televisioni, di tutte le radio, che soprattutto il giorno della prima notizia della morte di Pino Daniele non trasmettevano altro che le sue canzoni, che normalmente non è che poi si sentissero tanto, non è che poi il mondo si interrogasse tanto su questo, ma quando si muore improvvisamente si diventa un personaggio di primo piano. Giovanni, buongiorno. Ah, buongiorno, volevo intervenire per una semplice cosa. Nell'ultimo anno sono morti tanti attori, attrici, cantanti, l'ultima Virnalisi poco tempo fa, ma con tutto il rispetto per Pino Daniele come uomo e come cantante, ma è possibile che da una settimana sia più importante questa notizia di tutto il resto della politica nazionale, mondiale, eccetera? Tutto qua. Lei dice che c'è in questo momento una sorta di accanimento nel trovare gli elementi di singolarità in quella che è una luttuosa, triste, perché quando muore qualcuno nessuno allegro, nessuno fa allegria, quando muore un cantante che comunque è legato al passato emotivo di un'infinità di persone, non può che esserci tristezza. È come se sparisse dal mondo una radice di poesia, dispiace sempre, è come un albero che si secca. Questo è chiaro. Lei dice però in questo momento, in effetti, io sto seguendo il filo dell'agenzia. La prima notizia dei telegiornali è Pino Daniele, qualsiasi talk show Pino Daniele. È morta Virnalisi, è morto Faletti, è morto Iannacci, Califano, sono morti in tanti, ma dopo due giorni erano finite le notizie. Oh, lei mi sta proprio porgendo il piatto che mi aspettavo venisse dal pubblico. Voglio capire qual è la singolarità, qual è la diversità. È diviso il mondo fra una sorta di difesa a spada tratta di una condizione di essere, per quanto difficile, problematica, eclettica, che è la cosiddetta napoletanità, che è intoccabile. Gad Lerner, solo per aver espresso un giudizio, ma poi censurabile quanto vuole. Sento più. Sì, dico, Gad Lerner è stato stracciato, che se l'ha detto, cioè, sarà allontanato dalla sua Napoli. Poi uno avrà diritto, se nasce in una città, se celebra la città in cui è nato, attraverso la poesia, la canzone, l'arte, di andare a vivere dove piffero vuole, perché c'è qualcuno in questo deve considerare una sorta di tradimento delle proprie origini. Laura, buongiorno. 80024 0024, punto di vista di Laura. Allora, il punto di vista di Laura è che se proprio ha già detto tutto quello che volevo dire io. Cioè, e quando è morta Marisa Sannia? Cioè, nessuno ha detto una parola. Quindi voi in questo momento mi state portando verso una sorta di classifica della dignità di morire ed essere celebrati dai media. Dite questo perché più degli altri. Dignità di morire, ma quando una persona è nata, almeno, cioè, quando è morta Marisa Sannia, ma lei lo sapeva che era morta? Beh sì, lo so che è morta Marisa Sannia. Quasi non lo si sa. Sì, ma allora, a cosa vogliamo dare il metro? La celebrità, quanti dischi ha venduto, quanto è noto? No. La dignità della misura della notizia di una persona pubblica. Chi la dà la misura secondo lei? Perché questa morte di Pino Daniele non è la semplice morte di un cantante, a parte che è un attore molto più è un cantante molto più popolare di Marisa Sannia. Onore e gloria a Marisa Sannia. Del cielo. Sì, la riconosco. Però cioè, è come se mancasse una misura anche della dignità della famiglia. Ma la famiglia può prendere una decisione come vuoi? No, deve essere messa alla gogna. Non è messa alla gogna. La famiglia, naturalmente, un evento non coglie mai le persone preparate, non è che nessuno se l'aspetta. Ah, quello guardi, glielo posso assicurare. Io che ho avuto un marito che è morto di incidente stradale e mi ha lasciato con 3 bambini. Però come vede, lei però non ha il privilegio che ne abbiano parlato i giornali, ma lei sa che quando succede una cosa del genere cominciano i parenti di lui, i parenti di lei, le situazioni sospese, i lavori, ci sono un'infinità di problemi. Lei pensa che tutti i problemi che normalmente passano una famiglia quando muore una persona improvvisamente, non in età canonica di morire, quindi muore giovane, muore per una circostanza accidentale e non certo prevista. Tutto questo accade però quando la persona è celebre, è tutto sotto i riflettori, sappiamo tutto, sapremo tutto sulle difficoltà, sui litigi, addirittura sulla anamnesi familiare, sappiamo tutto che tutti i fratelli hanno comunque dei problemi cardiaci e che questo poteva aver determinato comunque un problema che si portano dietro chissà da quanto tempo. Chiara, buongiorno. Buongiorno. Il suo punto di vista? Io trovo che ormai questo popolo mediatico, cioè Belen che va a fare la visita e poi twitta, lo trovo vergognoso. Vabbè, cioè, Belen però vuole... di questo vive delle sue tette. Sì, certo, però no, è vero. Ogni occasione è buona, purtroppo. Così. Certo, per farsi vedere. Però la tristezza è che ormai girando per strada, al ristorante, si vedono le persone sole, anche se sono in compagnia, perché stanno cliccando, twittando, mettendo... Sì, però non mi faccia il discorso passatista, che mondo... Siamo fatti così, è un mondo in cui ci espandiamo anche attraverso delle protesi, non soltanto attraverso i nostri sensi. Quindi ci sentiamo vicini a delle persone mentre siamo fisicamente con altre e ci piace avere il parere di questo, far sentire la nostra vicinanza attraverso... Non è triste, fa parte dei tempi. Triste. È triste anche... Sì, sì, sì. Per qualcuno era triste accendere una lampadina invece del vecchio lume a petrolio. Il progresso ha sempre un aspetto che uccide della nostalgia, certo, ma due facce. Andiamo al punto. Lei trova che ci sia una fattispecie particolare in questa celebrazione funebre di Pino Daniele? Secondo lei da cosa è determinata? È sempre un po' troppo clamore, i due funerali, perché è stato fatto lì, perché non là, perché ecco, troppo, la gente è troppo tutto, cioè... Poverino è morto, che si è lasciato in pace, e la decisione è della famiglia. Però lei sa che è il momento, diciamo, del seppellimento, è il momento in cui, l'unico momento in cui si possa elaborare un lutto. È veramente una grande elaborazione collettiva di un lutto profondamente sentito? Immagino di sì, per i fan che facciano la fila davanti alla Camera Ardente e magari insultano D'Alema perché non faceva la fila, probabilmente c'era qualcosa, ma che per il resto... non mi dica questo, anche in questi casi... Si è visto in televisione, è tristissimo, che andava avanti, faceva finta di niente... Il popolo arrabbiato che lo insultava. Non credo, anche... ma è giusto. Sì, vabbè, non è la corsa al morto, giusto. Chi per primo va a farsi fotografare davanti al no, morto. No, però appunto. Cioè, Massimo, sentiamo Massimo a proposito. Massimo, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie della possibilità di intervento. Dunque, non volevo rispondere, io chiamo da Napoli, volevo rispondere ai due interventi precedenti a questo adesso della signora, in riferimento al clamore. Io ritengo che un giusto spazio, non so se lei si ricorderà quando morì Battisti, se ne parlo quasi per una settimana. No, ma io sono non è che c'è il suo il fatto se ne parli troppo. Intuisco che esistano delle circostanze diverse rispetto a altri episodi, diciamo, analoghi. Vorrei capire quali sono. Sì, certo, io per il mio modesto avviso penso che rispetto anche a Ugliagnaccio, altri autori, musicisti italiani, penso che io sono stato all'estero, Pino Daniele ha un rilievo internazionale, sono stato in viaggio di nozze a Miami e nei piano bar venivano a cantare alcune canzoni da americani in napoletano di Pino Daniele. Però diciamo, quindi ci rendiamo conto adesso l'enorme spessore popolarità che aveva questo artista. Sì, ha un rilievo, non perché sono napoletano, no, cioè per un dato di fatto, 2 più 2 fa 4, è un dato di fatto che Pino Daniele ha aperto uno squarcio nella musica nazionale e non solo. Per quanto riguarda poi il rilievo, ma questo del giusto spessore, i mass media, lei lo sa, fa questo mestiere, i mass media poi quando più se ne parla, più ci lavorano, più ci guadagnano in un certo senso. Più si trovano, più sono dei rovelli per tenere la notizia, meglio è, che discorsi. Diventa tutta una catena. Lei pensi adesso che bella sceneggiata viene fuori con la sorella, la prima moglie, la seconda moglie, la fidanzata, chi è colpevole, chi l'ha accompagnato, perché la gomma bucata, la gomma scoppiata sulla strada. Sono fatti loro, non cado in questo, in questi. No, ma per dire, lei capisce che la materia c'è, se uno vuole affondare. Sì, ma sono fatti, se di Battista se sono dette, se ricordano tanti, sì. La moglie, il figlio a Londra, tante cose, figura, non è questo. È vero. Però sa qual è il problema? Era un periodo in cui non esistevano ancora i social media, non c'era internet, quindi rimaneva circoscritto nella capacità di gestire il grande meccanismo dei media se stesso. Oggi chiunque può su Facebook, su Twitter dire qualcosa, e se questo è baciato resti in linea, mi piace avere un napoletano perché è importante. Melog, cronache meridiane. Ero nel 1981 a Piazza Plebiscito, avevo proprio le transenne nella pancia e stavo sotto di lui. E niente, sono qui, è un vuoto incolmabile. È un dovere, perché Pino per noi era ed è un fratello, un familiare. Siamo anche amici. Lo conosceva, quindi? Sì. Certo, l'imbarazzo dei colleghi di non andare a una folla che sta attendendo di passare un attimo davanti a una salma, una camera ardente, e dire cosa ne pensa, un suo commento, eravate amici, cosa ne pensa. È veramente la necessità, perché uno va lì, viene lì mandato, dover riempire lo spazio mediatico di qualcosa che probabilmente sarebbe riempito in maniera migliore nella rievocazione, nel ricordo, nella riflessione su quello che è stato il portato poetico dell'esistenza di un personaggio, piuttosto che capire qual è il ricordo personale degli individui che vanno lì e fanno la fila per rendere omaggio a una salma. Mi ero interrotto con l'ascoltatore Massimo, che è napoletano, e con lui stavo riflettendo sulle fattispecie di singolarità rispetto a questa notizia, e mi ricorda Massimo che in effetti quando accaddero cose analoghe con altri artisti c'era sempre questo corredo attorno. Quanto c'entra, visto che è un termine che a me dà fastidio persino di pronunciare, perché è troppo complesso poi dall'analizzarlo e troppo poco sereno, di facilmente trattabile in maniera serena, questa idea della napoletanità. Lerner ieri ha detto si era staccato dalla napoletanità solo perché era andato a vivere in Toscana, perché probabilmente se camminava per le strade di Napoli gli saltavano addosso dalla mattina alla sera, quindi poi è una scelta estetica, uno può andare a vivere dove vuole. Sono nato a Perugia, non metto più piede a Perugia non so da quanto tempo, e forse mai più ce lo metterò, ma sono fatti miei. Ecco, cosa c'entra questa idea astratta ma così pesante dell'idea della napoletanità tradita? Hai rivolto a me la domanda? Sì, certo, Massimo. Sì. Ah, sì, sì, ok. No, vabbè, io Garda è simpaticissimo perché deve fare sempre il basso al contrario, quindi uno non potrebbe mai trovarsi d'accordo, anche quando si va d'accordo. Beh, è una maniera per sopravvivere mediaticamente questo. Anche, no, semplicemente, mi perdoni di intercalare, no, semplicemente io penso che anche De Filippo, quando è morto nell'84, è sepolto a Roma, quindi è nell'81 disse fuggite venne a Napoli, tradotto in italiano fuggite venne da Napoli nell'81, cioè quindi immediatamente al posto terremoto. Quindi io penso che sono scelte individuali. Pino Daniele, d'altro canto, ha tratto successo proprio perché cantava in napoletano, che è una lingua, non è un dialetto. Sì, ma non è questo che lo obbliga a dover per forza mettersi a fare la statua vivente nella città che c'è. Assolutamente, ma infatti su questo io sono d'accordo, nel senso che può essere sepolto laddove abbia espresso, la famiglia possa esprimere il proprio desiderio. Di contro però penso che sia giusto, e qui visto che i parenti, io sapevo, so che i parenti vivono ancora a Napoli, fratelli diretti. Sì, l'abbiamo visti tutti. Ah, ok, io purtroppo non sto guardando molto la televisione, ascolto più voi forse che guardo la televisione, comunque hanno espresso il desiderio comunque nella propria città, visto che i parenti sono qui, la città. Beh, i figli ce l'ha Roma, poi alla fine capisce, come una grande famiglia, quando accade in famiglia qualcosa del genere, in realtà poi si tirano fuori i coltelli, si comincia figuriamoci, ma questo non è nulla. Sia per le parti concrete che per le parti, diciamo, certo, inconcrete che lasciano la persona, certo. E cominciano le rivendicazioni. È chiaro che anche nelle famiglie di grandi personaggi esista questa problematicità, può esistere, può non esistere, comunque sia. È il fatto che, ahimè, il grande personaggio si porta dietro il fatto e la necessità che tutto questo diventi pasto pubblico, pasto per tutti. Sentiamo Giovanni. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, salve, grazie per la possibilità. Vabbè, ma diciamo, non è anche una concessione, il mio lavoro lo faccio volentieri. Anzi, sì, se non ci foste voi, starei qui a incrociarmi le dita, perché quello che devo dire l'ho detto nel giro di 2 minuti, non ho molto da aggiungere. Quindi mi piace sentire il parere di persone che rappresentano il paese. Nella piccola fetta dell'ora del soffritto, comunque c'è gente che rappresenta l'idea dell'Italia. Allora, il suo punto di vista. No, diciamo che buona parte di quello che volevo dire è stato già un po' detto da chi mi ha preceduto. Io fondamentalmente sono convinto che, a parte la grandezza, ho il piacere di sentire e di ascoltare le canzoni e le poesie di Pino Daniele, che nessuno può togliere a nessuno. L'evento mediatico è cresciuto a dismisura perché c'è la lite tra i familiari, lite tra virgolette, ma è quella che sta gonfiando più del solito quello che potrebbe essere un fatto traumatico. Lei dice ancora tutti. Il bello deve venire, cioè quando cominceranno a parlare concretamente. Esatto. Come è successo con Lucio Dalla. Si ricorda Lucio Dalla, quella sorta di ipocrisia, esatto, col fidanzato che stava in chiesa abbracciato dai vescovi, ma nessuno diceva che era il fidanzato, per amico. Esatto. Che poi si è andato poveretto, se con un calcio nel sedere alla fine. A caldo la grande vicenda era questa, però attraverso mille ipocrisie accadrà qualcosa del genere, secondo lei? Secondo me, diciamo, forse hanno trovato la quadra, perché a un certo punto uno dei fratelli ha accettato la scelta dei nipoti di fare il funerale la vicenda di Pavarotti, se la ricorda Pavarotti pure, è morto lasciando una situazione, esatto. Sa, ognuno di noi ha delle situazioni personali fluttuanti, e quando muori prova in tutto a galla, non è che puoi più, non le puoi più gestire, capito? L'altro giorno un vignettista, un satirico, ha fatto una vignetta per quanto riguarda la morte di Mango, Pino Mango, sì. Però anche lì non c'è stato lo strascico che c'è stato con Pino Daniele, perché la famiglia in blocco tutti quanti ha Lago Negro, e quindi tutti quanti si è estinta la notizia nel momento stesso in cui, quindi, diciamo, se uno fosse famoso e celebre dovrebbe tenersi tutta la famiglia, vivere nel paesello dove è nato tutti assieme, almeno farebbero compatti, però ahimè quando una persona diventa celebre la celebrità significa che il tuo corpo viene divorato mentre tu sei ancora vivo da un'infinità di persone, non ne sei più padrone. Anna, buongiorno. Anna, non so se ha letto l'SMS, oppure perché ho citato anch'io la vicenda di Pavarotti. Mi dica, non ho letto l'SMS. Perché quando manca qualcuno, diciamo, è una prassi ordinaria, capita a tutti, però... Anche ai comuni mortali, non solo alle persone celebri. Sia quelli famosi che meno, però quando si crea il conflitto tra i familiari, allora probabilmente la maggior parte delle persone si identifica nei problemi che si riscontrano e diventa di interesse maggiore, e ovviamente poi mediaticamente questo interesse viene cavalcato. E volevo dire, questa cosa accade anche in letteratura, perché ho fatto un corso di scrittura creativa e non c'è mai una narrazione interessante se non c'è il conflitto. A questo l'hanno insegnato al corso di scrittura creativa, che bisogna sempre creare un conflitto. Sì, cioè, se, cioè non è interessante un romanzo se non c'è un conflitto dentro, e evidentemente anche le notizie non sono interessanti se non c'è. È interessante che ci si faccia pagare per dire questo, perché no, sono cose che occorre un profondo studio per suggerire a una persona. Se non scrivi qualcosa che c'è una storia dietro, non ha successo. È vero, è giusto. Ma però, guardi, anche poi rispetto a questa faccenda che diceva con Pavarotti, c'erano la prima moglie e la seconda moglie, c'era un conflitto anche per l'eredità, eccetera. Però anche io non ricordo se era Tolstoi o chi altro, iniziava un famosissimo romanzo dicendo: le famiglie felici sono felici tutte nello stesso modo, quelle infelici sono infelici tutte in modo diverso. Quindi il conflitto. Sì, perché la felicità familiare in realtà. Sì, ma è uno stereotipo, è una rappresentazione. Le famiglie felici sono felici allo stesso modo, perché tutti rappresentano la felicità come una sorta di zuccherosa apparenza che in realtà non corrisponde. È noiosa, probabilmente. Cioè, infatti, lei non scriva mai nel suo futuro romanzo di famiglie felici, se no non legge nessuno. Massimo da Ferrara, molto interessante quello che dice, ma ha tolto le parole di bocca, come dicono molti ascoltatori. Buongiorno, senta, sì. Io volevo invece fare un commento così sul fenomeno del... Certo. Io posso capire, anche io ho dei cantanti che mi hanno accompagnato nell'infanzia, nell'adolescenza, che se venissero a mancare mi spiacerebbe relativamente, ma io poi personalmente non li conosco. Io leggere o sentire commenti del tipo... un vuoto incolmabile, non riesco a smettere di piangere. Sì, ci ho sorriso anch'io. Questa lo sa, lo scriverebbe anche per un gattino che vedono sofferente per la strada. È la grande rappresentazione emotiva dei media. Ancora nessuno ha scritto sulle cerimonie post-mediatiche. È che improvvisamente comincia a girare su Facebook la notizia: morto Pino Daniele. Tutti improvvisamente si ricordano, si accorgono che Pino Daniele potrebbe essere qualunque altro artista, che la loro vita era imperniata in maniera indissolubile sull'esistenza di questo personaggio. Addio Pino, ti saluto, sei tu un cielo, una stella fra le tanto cambia solo il nome, oggi è Pino, domani sarà Giovanni, Giuseppe, sì, Antonello. Io le dico... quella è pure idiozia, lui... è pure idiozia post-mediatica. Sì, fenomeno. Ho visto, mi chiedo scusa se la interrompo, io ho visto gente piangere sulla tomba di Jim Morrison, persone che così a occhio erano sicuramente nate dopo che Jim Morrison era già morto, quindi la gente è veramente assurda. Vabbè, le lacrime che gli avanzano, non sanno dove metterle, le mettono lì, buon per loro, sono fortunati, se non hanno, c'è gente che ha gli occhi prosciugati e non ha più occhi per piangere, e quindi evidentemente l'ha usata in maniera diversa. Graziano. Buongiorno. Con distacco penso a due situazioni, mi riferisco all'aspetto istituzionale. Welby e due funerali a Pino Daniele. Welby ha rifiuto della Chiesa di fare il funerale, sono due casi assolutamente diversi, ben si intende, e questo signore molto noto, che però alla fine anche l'altro lo era per le vicissitudini precedenti. Sono vicende un po' grande rispetto, Fontana, sono vicende un po' difficilmente. Uno era simbolicamente un personaggio che reclamava un diritto di definire la propria morte, e la Chiesa su questo non è assolutamente d'accordo. L'altro è un personaggio che tutto avrebbe fatto meno che voler morire, penso, in quella serata. Ci sentiamo domani.